Già che insomma la situazione certamente non migliora, anzi va peggiorando, nonostante insomma scioperi, manifestazioni oggi e ieri. In questi giorni il pubblico impiego è fortemente mobilitato, e però questa notte l'ennesimo aggressione da parte fascista ha portato all'uccisione di un compagno di un comitato antifascista greco. È stato ucciso a coltellate, la tipica aggressione, insomma cose, notizie non positive. Ma adesso siamo in collegamento con un compagno per parlare dell'assemblea che ci sarà domani al Volturno, in preparazione all'assemblea cittadina, in preparazione della manifestazione del 19, e quindi ti cediamo la parola. Buongiorno a tutti e tutte, Luca del coordinamento di lotta per la casa. Insomma, non sapevo di queste ultime notizie che provengono dalla Grecia, insomma, quindi ascoltavo con attenzione. Tornando insomma alla questione dell'assemblea di domani, è il primo appuntamento insomma di un cittadino collettivo, di uno spazio che si vuole pubblico, insomma, rivolto alla costruzione insomma nella città di Roma, che però sarà anche quella che dovrà ospitare la mobilitazione nazionale del 19, però insomma anche di costruzione proprio del coinvolgimento sociale e politico della città di Roma rispetto a questo percorso che ha avuto delle tappe insomma che ne hanno portato allo sviluppo. La due giorni a Porto Fruiale l'1 e il 2 giugno, poi diciamo gli appuntamenti dentro il campeggio di lotta No TAV a Benaus, poi i campeggi diciamo della Miata, il campeggio Non Muos, che hanno ripreso insomma alcuni contenuti centrali insomma rispetto al percorso che si vuole costruire, e diciamo hanno di fatto indetto così in maniera larga, plurale, questo appuntamento che era la manifestazione del 19 in particolare, ma che è una settimana di lotta e che è forse un percorso possibile insomma che possiamo mettere in campo e costruire. Quindi ecco, domani ci si vede per la prima volta nella città di Roma in maniera collettiva, e quindi avremo la responsabilità di costruire i tantissimi passaggi insomma, sia quelli di comunicazione alla città, sia quelli di lotta, di sostegno logistico insomma anche all'arrivo dei compagni. Quindi questo è un po' l'appuntamento di domani, che è alle ore 17:30 al Volturno occupato. Chiaramente credo che sia importante insomma sviluppare una riflessione politica insomma al di là di questa introduzione rispetto all'assemblea di domani, ma soprattutto al clima che si sta delineando insomma, per cui mi sembra che qualche operazione insomma cerchi anche di infastidire questo tipo di processo e di percorso in campo, mi riferisco al 12 diciamo di lotta sui beni comuni e sull'abitare insomma, che doveva e che aprirà di fatto la settimana di lotta che avevamo già immaginato. Mi riferisco ovviamente al 12 della FIOM sulla Costituzione, insomma, a questa operazione che io giudico di recupero, no? In qualche modo di una fuga in avanti, di un tentativo che può essere importante dei movimenti di diventare protagonisti insomma di questa fase. E dall'altra mi sembra che siano partite un po' di operazioni di criminalizzazione. Non ci stupiamo che il tempo insomma dica ieri si trova ancora online, insomma, quindi lo si può visitare tranquillamente, tornano di sfascia vetrine a Roma, o che il prefetto di Roma, uscendo da questo incontro con Marino, con un nuovo sindaco che sembra più sceriffo di quelli che l'hanno preceduto, annunciando questo subcomitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, dice ci sono i palazzi occupati da sgomberare, quasi mette queste parole in bocca a Marino, insomma, mi sembra che però non le abbia smentite. Quindi ci sembra un clima e un approccio grave insomma alla questione abitativa, e soprattutto che ci sarà un vertice specifico su questa giornata del 19 ottobre quando il prefetto, meno così via, racconta, l'avrà raccolto le informazioni del caso. Insomma, tra l'altro mi sembra che avevate chiesto proprio come diciamo movimento di lotta per la casa un incontro, insomma, no? Sì, ma perché diciamo nelle prime fasi sembrava avere un approccio più dialogante, insomma, anzi lui stesso quando l'abbiamo incontrato detto, no, bisogna farli periodicamente, per noi è importante il dialogo con questo movimento sociale, quello che rappresenta anche come bagaglio, vabbè, tutte queste chiacchiere, insomma, che non vi ripeto. Poi ha compiuto questa scelta sulla questione dei residence che contesteremo. Sapete, ieri abbiamo occupato la sede dell'ANCI, insomma, rispetto alla questione degli sfratti e anche dei provvedimenti che il governo ha messo in campo che non ci piacciono per niente. E lunedì saremo in manifestazione in Campidoglio, quindi avremo modo di chiamare in causa il sindaco, che ha detto diamo questo buono da 700 euro a chi da solo va sul mercato, si trova un contratto, così faremo uscire le persone dai residence. Intanto però ha disdetto i contratti, quindi le prime quattro strutture, insomma, che poi sono strutture che vedono una presenza forte dei movimenti, rischiano la chiusura, quindi a un certo punto diventano, non so che diventeranno se la gente non esce, diventeranno delle occupazioni e si riproporrà un problema di ordine pubblico, insomma. Quindi andiamo lì a contestare anche il fatto che non condividiamo per niente le prime scelte che questo sindaco ha fatto sul tema della casa, che sono grossi spot, sono scelte che vanno nella direzione sbagliata in maniera più assoluta. Quindi niente, quindi si apre anche questa dialettica con il sindaco di Roma, vediamo come si svilupperà. Noi siamo molto arrabbiati, quindi ci andiamo con tutta la rabbia che abbiamo in corpo a manifestare sotto al Campidoglio, insomma. Certo, e tornando all'assemblea di domani, giustamente ricordavi questo inizio della settimana di mobilitazione che si chiuderà poi il 19, mi sembra anche il 20 poi è prevista un'assemblea, è confermata o no? Ma l'ho vista anche io su qualche mail, credo che sia da confermare. Da confermare, però l'idea di rimanere in piazza la sera e il giorno successivo c'è, ecco, come l'idea di dire gestiamo comune, in maniera comune e collettiva, il percorso che è altrettanto importante, no, rispetto a quelle giornate che si fa di avvicinamento a questo periodo di precipitazione, e gestiamo insieme anche il dopo, ecco, quindi per evitare anche sfilacciamenti o no. Che si lavori anche nelle divisioni, no? del movimento, come è accaduto qualche tempo fa. Ecco, secondo te, insomma, tanto per tornare così, insomma, innanzitutto un invito alla partecipazione ovviamente domani a questa assemblea, perché penso che per le cose che dicevi tu stesso, insomma, il clima che cercano subito di montare, le sovrapposizioni da un altro lato, questa convocazione della FIOM e della difesa della Costituzione per il 12 cade proprio nella giornata nazionale che apriva questa settimana di lotta, dove erano previste iniziative un po' non solo a Roma, insomma in altre parti d'Italia, mi sembra, no? E quindi sì, assolutamente erano previste in maniera diffusa sui territori, sono previste, insomma, mi viene da dire. E anche te bisognerà capire come fare i conti comunque con questo tentativo, no? di calare questa cappa, insomma, che è stato messo in campo. Certamente ce le potevamo anche aspettare, ce le aspettavamo, operazioni, diciamo, di recupero come queste, insomma, che tentano di sviare totalmente, insomma, il problema delle condizioni sociali sprofondate, della precarietà, dell'impossibilità di arrivare alla fine del mese, che investe settori sociali sempre più larghi, della necessità di confliggere con queste scelte che proseguono, no? Che oggi vengono incarnate dal governissimo in carica, come chiaramente tutto quello che è la devastazione dei territori, no? Il profitto che invade ogni aspetto delle nostre vite. E diciamo che ce lo aspettavamo, perché nonostante tante cose vadano ancora messe a punto rispetto alla settimana di lotte al 19, è un qualcosa che, diciamo, è partita forse da alcune lotte come suggestione, che si dimostra di poter crescere, che va raccolta in maniera generale dai compagni. Quindi c'è ancora tantissimo da fare, lo dico anche rispetto proprio all'assemblea romana di domani, ci aspettavamo però queste operazioni di criminalizzazione e di pompieraggio, insomma, di recupero, almeno così le leggo io, poi se c'è un dibattito da fare lo facciamo con chiunque, perché chiaramente per la prima volta i movimenti sociali in maniera libera, auto-organizzata, decidono di diventare protagonisti, rilanciando il conflitto sociale, unendo queste lotte, ma anche di una sfida che assume un carattere politico, no? Di dire cos'altro dobbiamo aspettare. Qualcuno credeva che il Movimento 5 Stelle potesse rappresentare un qualcosa che sconvolgeva il panorama politico in questo paese, ci stiamo accorgendo sempre più, oppure cosa aspettiamo ad accorgersi, che non è dentro le istituzioni, che fra l'altro si vengono a modificare in maniera sempre più autoritaria e verticale, insomma, rispetto al modello di governance che viene fuori. Sono sempre le scelte che avvengono in altri paesi, sempre le grosse lobby finanziarie, economiche, bancarie, eccetera, che decidono tutto. E cosa aspettiamo a capire, che è l'alternativa rispetto non a chi governa in questo momento, cioè a chi occupa una seggiola nelle istituzioni, ma l'alternativa a un sistema che ha fallito complessivamente e che ci opprime, è rappresentata dai movimenti sociali stessi, insomma. Ecco, quindi credo che questo sia un po' quello che sta dentro la costruzione di questa settimana di lotte del 19, e che è la cosa più importante che tutti capiscano e che raccolgano, insomma. E quindi che ci siano dei nemici, in qualche modo è anche normale, perché forse lì dentro c'è l'unica speranza di riconquistare diritti e di un cambiamento radicale dell'esistenza. E certamente direi che la sovrapposizione, così, per quanto riguarda la giornata, è chiara. Forse nel dibattito, e speriamo, insomma, che da domani la discussione aiuti anche a fare chiarezza, è il tentativo probabilmente di spostare da un piano sociale quelli che sono espressioni più o meno consolidate di conflitto a un piano istituzionale, insomma, no? In cui io ho notato che nella piattaforma, diciamo, del 12 della FIOM e Compagnia Bella, anche lì, insomma, ci sono accenni al reddito, ovviamente al bene comunismo in senso lato, eccetera eccetera, quindi con un ampio raggio tendente a coprire poi quelle che sono, diciamo, istanze più di base, no? È un modo di dire forse a questi movimenti, a queste istanze, vi rappresentiamo noi. Esatto. E a chi governa, anche rispetto ai futuri scenari, no, legati a quello che accadrà intorno a Berlusconi, guardate che noi siamo quelli che vi permettono di dialogare con queste istanze e quindi di tenerle buone sostanzialmente, dentro le compatibilità date, insomma. Ecco, questo sembra a me molto chiaro, quindi anche molto nemico di quello che voglio costruire, insomma. Quindi spero che anche l'Assemblea, esatto, domani su questo abbia un punto di vista chiaro, si possa esprimere. Credo che sia importante anche sviluppare un dibattito e giocare a viso aperto, insomma. Non credo che ci siano tatticismi che possano pagare da questo punto. Esatto, in questo momento credo, insomma, che immaginare sponde, spondine, eccetera eccetera, sia sempre, non dico più difficile, ma abbia sempre meno senso, insomma, perché la situazione è tale per cui necessariamente si va a una radicalizzazione, non dico delle lotte, perché ancora, diciamo, è tutto da costruire, ma sicuramente almeno delle intenzioni, no? E quindi la chiarezza dei comportamenti, dei metodi di intervento, di queste cose qui, insomma, rimandare tutto a una difesa della Costituzione è tentativo di comunque di annacquare qualsiasi cosa, insomma, no? Senti Luca, volevo chiederti se tra le tappe di avvicinamento a questa settimana di mobilitazione sono previsti altri appuntamenti diciamo carattere nazionale, di tipo assembleare, proprio per verificare, diciamo, la messa a raccolta fruttuosa di questo percorso, visto che, come hai detto tu, in effetti, insomma, è partito un po' come, diciamo, tentativo di coniugare soprattutto quelle che sono divenuti i conflitti di una portata ormai centrale, come la lotta per la casa, diciamo, no? Con i diversi cicli di Tsunami Tour e la lotta in valle. Sì, assolutamente, me lo chiedi perché sai che è previsto, insomma, un altro momento di confronto a carattere nazionale. Diciamo, torno un pezzettino indietro soltanto per ricordare una cosa che a me preme molto, e non che non scompaia insomma dal calendario, che abbia la sua visibilità e importanza, nel senso che io ricordavo alcune tappe romane del Movimento per l'Abitare, ma spero e credo che vengano fuori, no, altre iniziative di lotta, altre forme di conflitto insomma, che possano permetterci di arrivare col clima giusto questa settimana. E quelle sull'Abitare ho ricordato sicuramente l'occupazione dell'ANCI ieri, la mobilitazione in Campidoglio di lunedì prossimo, ce ne saranno altre chiaramente, ma in mezzo sabato c'è la manifestazione sulla questione dei rifiuti, a cui noi pensiamo di andare insomma, ecco, a dare la nostra solidarietà, a dare un messaggio insomma di condivisione, di unione delle lotte, che in qualche modo è un passaggio necessario per rompere forme, no, di lotta che rimangono chiuse in un solo territorio o anche che si sviluppano in maniera settoriale, quindi poi non sono in grado di rimettere in discussione complessivamente le scelte che vengono fatte e che producono queste devastazioni sociali e ambientali. E quindi c'è la mobilitazione sui rifiuti, dal punto di vista nazionale c'è sicuramente insomma l'assemblea nazionale prevista per sabato 28 settembre, che si terrà la Sapienza, dicono probabilmente a Fisica insomma, ma aspettiamo una conferma a questo punto di vista, che dovrebbe arrivare a brevissimo, e quella sarà un'occasione appunto per riconfrontarci in maniera larga, plurale, su come portare avanti questo processo e poi anche chiaramente gestire le mobilitazioni stesse, gestire, capire come vanno sviluppate, come vanno organizzate, ecco, questo intendo. Poi il 28 è in contemporanea con la mobilitazione nazionale non MUOS, quindi insomma, dobbiamo trovare anche le forme per mettere in connessione queste battaglie che già ci sono insomma, però magari anche pensando, che ne so, una delegazione romana che vada giù, non soltanto a una loro, che ci garantiscono parteciperà all'Assemblea Nazionale a Roma. Perfetto, d'accordo. Allora ribadiamo l'appuntamento di domani pomeriggio alle ore 17:30 al Volturno per discutere sulla costruzione della settimana dal 12 al 19, forse anche al 20. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao.